9.30. Lo stesso problema c'ho con Vannino io. Io non capisco di noi due, e tu hai stessa cosa con me. Scusate. Registrato Albecche? Sì, ma abbiamo un problema noi due, quindi tu a me controllo e non me ne puoi dare. Perché io da Mario Massa sono 9.50 e quando attacco sono 9.60, da Franco sono 9.40, da Cosa sono 9.40, a Platanoa sono 9.30 attaccato, fatti conto se ho problemi di modulazione, quindi è un problema tra me e te, abbiamo un lombo e radiazione evidentemente completamente fuori fase. Avanti break. Maffa, saluto da tutti, Joker, con la buonasera. Volevo chiedere una cosa, c'è Franco per caso nella rotta? Franco ce n'è due, ora Platanoa non lasciasse, Franco Delta 1? Sì, credo di sì. Non è Franco. No, Franco California sta cercando lui. E a Platanoa Joker, ciao, buonasera. Maffa, salutoni. Quindi, ma c'è in rotta oppure no? Ma sicuramente lo senti, attenzione Franco. Ma l'ho chiamato anch'io, forse è sceso perché stava cercando parcheggio, Gioca. Ah, va. Claudio, prova a chiamarlo tu che sei più forte. Sì, l'ho chiamato già, ma non mi ha risposto. California? Ma non è sceso dalla macchina, Gioca, non ci sono problemi. È sceso dalla macchina. Luca, io non capisco, Flipper, non capisco come mai tempo fa noi andavamo bene. Adesso non andiamo più bene. Non ho capito, io problemi non ne ho, te lo posso garantire che non agio, perché le mie prove io le ho fatte, sta di fatto che a Mario le arrivo 9.50 e a te ti arrivo 7, quindi il problema è tuo tra te e me, ma io non ne ho, è la tua antenna verso la mia che ha problemi, capito? Quindi non mi puoi dare segnali tu, sei completamente fuori sintonia con me. Devi vedere un po' qual è il problema, perché io ti ho sempre ricevuto bene. E se ti ricordi ti ho anche fatto i complimenti. Ho detto, sembra che stai usando un'antenna verticale esterna, ti ho detto così? Sì, non capisco. No, la boomerang è sempre piazzata lì, non l'ho più toccata, perché se la giri di poco questa qua stazionale, perché lo sai, nel palazzo così. Però i tuoi segnali sono strani. Adesso sei andato a 7, a 8, poi 9 e 10 addirittura. Non capisco perché gli altri mi ascoltano stabili. Ecco quello che tu dici, il problema è il mio. Ma e come mai gli altri mi ascoltano stabili a me? Ecco, se il problema ce l'ho io, anche gli altri mi dovrebbero ascoltare oscillanti. Aspetta, no Lu, no, non è così. Ascolta, dimmi una cosa invece, non è che c'è qualche torre di qualche costruzione, no? Che ti hanno messo a fianco? Torre di... no, fanno... Ma ok, io la fanno la vera, ci chiamano la vera. È una gru, ma quella c'è da parecchio lì vicino alla locomotiva dove stanno costruendo. Ma quella c'è già da un po', ormai l'hanno già quasi finito il palazzo. No, non intendo dalla parte della locomotiva, intendo dalla parte della Scobec. Verso Claudio, andando verso Claudio. Io da qua non è vero. Comunque c'è qualcosa appunto che influisce, che finisce, perché anche io ripeto a Claudio lo sento, lo vedo così, lo slitto mio sale, addirittura scende a Santiago 3 scende, cioè a Claudio lì. Cioè, le altre poi sale di colpo a 7, 6, 9, mentre i vostri di Mario, tu e Luca, sono tutti stabili, in zona largo lì e basta. È una cosa che non riusciamo a capire, ma io le Claudio qua. Te lo spiego io perché sicuramente c'è qualche cosa nella linea d'aria tra te e Claudio, magari Luca riesce a passare perché anche se riesce a passare in un spigolo riesce sempre a passare, evidentemente nella linea d'aria tra te e Claudio c'è qualcosa che i vostri segnali praticamente rimbalzano. Ho già spiegato lui, io problemi non ne ho perché i miei controlli me li ho fatti, il mio segnale è stabile da tutte le parti. Sono 9.30 a Platanoa, te l'ho detto, 9.50 da Mario, che è sempre quello il mio segnale. Poi io ricevo benissimo tutti stabili, ricevo a Luigi da dentro il garage, è entrato in garage e sta sempre modulato, cazzo c'era, il problema era mio. No, lascia perdere, va. Hai qualche attacco nei miei confronti tu, ma nato da poco, sicuramente, da giorni, perché io la settimana scorsa ti stavo ascoltando quando stavi parlando con Gianni, che sono entrato anche a salutarti, e il tuo segnale qua a casa mia è più alto di quello che ti dà Luca, è 9 più 30, capito, quindi vedi bene, con quell'antenna tu arrivi qua, 9 più 30, perciò tra me e te c'è un ostacolo che ci sta dando fastidio, perché io problemi non ne ho, io qua giù sono a posto, tranquillo, sono a posto, è meglio di così, non posso uscire da qua, sono soddisfattissimo, perché arrivo forte da tutte le parti, con 100 watt e oltre 100 watt non ne parliamo, ma con 100 watt arrivo fortissimo da tutte le parti, poi all'alta voce non c'è uno che sa il mio segnale, non c'è uno, tranne Franco, mia parità di potenza, ma da Mario io sono 9,50 stabile, sono 9,40 da Franco Delta 1, lui, come faccio a dirti il contrario? C'è qualcosa tra me e te? C'è qualcosa nell'aria, buonasera. Avanti Marco. Ehi, ciao, buonasera. Cosa c'è? Cosa c'è? Segnali che non tornano. Ciao, buonasera, c'è anche un altro break, avanti l'altro break. Buonasera, sono per te, Delta 1. Allora, una volta ci sono io, c'è Luca Flipper, c'è Luca Del Monte, Natalino, Franco Delta 1, c'è Joker, Marco e Mario Marshall, quindi un po' per uno facciamo girare. Intanto ti pongo il quesito, Marco. Allora, tra me e Luca Flipper, io ce l'ho davanti, ok? Il suo segnale nei miei confronti è calato notevolmente. Da un 9,30 lui mi fa tipo QSB, no? 9, 7, 5, 8, 9, 9, 5, eccetera, eccetera. La stessa cosa faccio io a lui. Però lui nei confronti degli altri, no? Parlo di Luca Del Monte per dire, è stabile a 9,20. Ok? Se Luca Del Monte è dietro di me e io sono davanti a lui, cosa può essere successo? Una sfera di cristallo ci vuole, a parte che, ciao, buonasera a tutti. Bisognerebbe vedere, possono essere tanti fattori, qualche strumento non sta funzionando correttamente, non so. Luca Flipper è che hai scelto di segnale, vediamo un po', Luca come mi senti? Fa un passaggio, voglio vedere come arrivi qui da me. Ciao Massimo, buonasera, 9 qua. Guarda un po', io a Claudio l'ho ascolto oscillante da 3, 5, 7, 9, 9, 10, poi ritorno sono entrato a 3. Mentre gli altri sono tutti stabili, è così stabile a di voi o agli altri. Però con Claudio abbiamo questo problema qua, che sembriamo in macchina, cioè sembriamo in macchina, veramente. Adesso sono circa 15 watt. Stai andando anche in negativo. Santiago 9 qua, però sei negativo, Luca. No, io negativo non lo vedo, io lo vedo che è poco più di 8 e poi sul parlato va a 9 più 10 quasi, da 8 va a 9 più 10, ma a 9 più 5, 9 più 10, però mi sembra più o meno un segnale che hai avuto sempre qui da me, non trovo niente irregolare. Claudio, il segnale era il suo, come sempre, non trovo niente di strano nelle vostre emissioni. Va bene, io rilancio a Natalina l'ultima etata che poi farà girare per gli altri. E avanti Claudio. Ah, posso Claudio? Vai, vai. Marco, mi puoi dare un controllo? Quanto arrivo da te? Ho attaccato, metto 40 watt circa. 9 più 40 sei sul parlato. Ok, va bene, aspetta. Vedo un po' attaccato a te. Il passaggio è troppo veloce, dai il tempo di vedere bene gli strumenti. Allora, attaccato, quant'è? 9 più 20 staccato. Ok, vabbè, scappa. Allora, riprendo io, Marco, io sono a 100 watt pieni, quindi a 40 in più, considera il fatto che lui è più vicino a te, mi voglio togliere anche questo quesito, perché io con Luca non riesco a capire qual è il nostro problema. Il mio segnale, quant'è da qua giù a salire a te, così come sono a 100 watt? Fondo scala incollato. Dai, vai, per favore, Luca, lavati l'antenna, dai, fai qualche cosa che... Cioè, tu immagini che io sono sotto di Luca, è sopra, 500 metri da Marco e arrivo più forte di lui a meno potenza. Dai, vai, facciamola, bravi. È un quesito che mi sta cominciando a girare le balle perché non capisco, ma non ho avversaria, io, Luca. Cioè, è matematicamente... Esatto. Forse è troppo in inglese, allora, aspetta. No, perché sei su però. Ecco qua. 120 ce l'ho troppi, non li posso mai riportare, adesso ne ho fatto 70. Ho detto. Quindi non sono neanche saturo. No, perfetto. Non è qua, ovviamente questo. Non c'è neanche nessuno. Allora io con Carlo Carbone a Chiaramonti mi arriva, ha lo stesso problema che ho con te, con un'antenna, mi fa queste B da 1 a 7 e lui mi riceve da 1 a 7, cambio antenna, arrivo a 8, perfetto, radio 5, c'è una riflessione Claudio, sì, tutta la sera parlando, dice che sei perfetto, tu esci forte, non ci sono dubbi, però accetta anche quello che ti dice lui, lui ha una riflessione nei tuoi confronti, c'è qualche cosa che succede così, questa effetto di conoscenza, e lo credo perché mi capita un sacco di volte. Perché per pulirmi che due ore su questa cosa? C'è una riflessione, punto. Nelle altre parti anche a me mi incolli tutto, a Mario Manso. Dunque tu lo sai che non lo sei, però accetta che ci sia anche la riflessione. Guarda che ci sia la gru e c'è lì vicino a casa tua che sta creando quel problema. Non è altro qua. Walter, che hai fatto l'entrata a Leone? Voglio capire dov'è il problema, perché se lui dice che gru non ce n'è, io gru non ne ho. Riflessione io non capisco, cioè riflessione di cosa? Non lo so Walter, vogliamo capire qual è il problema, perché io a lui, tempo fa, sto parlando di 20 giorni fa, lo sentivo fortissimo, tant'è vero gli ho fatto i complimenti e gli ho detto per l'antenna che hai, e sembri con un'antenna come la mia, perché arriva molto più forte qua, 9.30. Cazzo, ma adesso mi fa da 5 a 7, da 8 a 9, lo stesso problema io ce l'avevo a Carbonati con Vannino in 2 metri, non riuscivamo mai a capirci, voglio capire, a voi che ne sapete di più. E qual è il problema? C'è una riflessione qua, c'è qualche ostacolo nuovo che si è aggiunto, che non lo sai. A me lo sai quanto ne arriva Luca qua, 9.30, come Luca del Monte, non so dove parla l'altro Luca, mi arriva 9.30, fisso, perfetto. Ma tu cerchi di capire, questa non è una politica, è una cosa che io in 30 anni che faccio radio non avevo mai verificato. Che poi con Vannino l'abbiamo verificato che lui aveva le antenne piene d'acqua o piene di vino, io no, questo è un altro problema. Ma con lui in 20 giorni si è creato questo problema. E siccome io me lo sono posto il problema, perché è impossibile che Luca Del Monte arrivi col segnale più alto del mio che io ce l'ho davanti, ecco qual era il mio problema, non perché voglio fare polemica, per carità. Luca Fitta, dove trasmetti tu? Sono veloce. Perché sono Mario? Arriva molto più basso di Mario da me. Mario era 9.40. C'è una riflessione, non è antenne piene d'acqua, no? Perché lo stesso problema che ho avuto tu con Vannino, l'ho avuto anch'io a volte con Vannino, era un problema di come avere le antenne, di ostacoli, di punteggi, con Carlo Carbone era uguale, invece a me le capitano 3-4 volte. C'è qualche ostacolo che sta influenzando i vostri segnali, punto. Non è che ce la capiamo molto, se no ti pigli un elevatore di segnale, o chiami a Franco Delta 1, con una sogala, fai camminare così e lo mandi verso quella direzione. Sì, falta, e va bene fino a qua. Il problema è un altro però, che lui non c'ha un'antenna verticale, c'ha una boomera, e arriva 9 più 20 a Luca Del Monte, mentre a me mi arriva Santiago 8. C'è una verticale, eh? C'è una boomera, c'è una verticale. Sì, vabbè, ma dico, è montata in una maniera non eccezionalmente bene. E arriva 9.20 a Luca Del Monte, ok, ci siamo. Mentre a me che ce l'ho davanti, mi arriva Santiago 8. C'è qualche corridoio. C'è qualcosa, denuncia, lo sento come dirti. Si trova a sera, è facile, mi c'hai un ostacolo, tu e due, fra voi due. Non ci sono le antenne che quando le hanno imballate, le hanno vedute, sono afferrate, non si possono vedere, io dovevo vedere insieme prima. No, te lo spiego io. Te lo spiego io che cosa può essere, guarda, basta che ci sia una struttura, uno schermo, può essere anche una pannellatura di lamierati tipo da cantiere, o un qualcosa del genere che è sistemata in una maniera tale che per Luca non crea nessunissimo problema, mentre per Claudio, pur se ce l'ha a portata ottica l'antenna, questa struttura metallica lui la acchiappa e interferisce con il suo segnale, non è niente di più, qui le persone cominciano a essere abbastanza forti e ci sono. Oh, perfetto, cioè se questo è il problema, se questo è il problema, è nato da poco. Ecco, chiuso il discorso, è quello che volevo capire. Perché Luca si crea giustamente un problema come me creo io, ma come? 10 giorni fa ti ascoltavo 9:30, mi ascoltavi 9:40. Adesso io ti ascolto Santiago 8, mentre gli altri ti ascoltano 9:20. Dov'è il problema? Il quesito era questo, non è che stiamo facendo fuori vita. Ma se solo me il ponteggio, se solo me queste lamiere, vado le carico stanotte e me le porto via, che cazzo me ne frega. E se ti hanno fatto io sì, guarda un po' se vedi qualche pannello perimetrale di quelli lamiera da cantiere che hanno messo, quella è la causa, perché molto spesso l'altezza che hanno, altezza per la lunghezza, basta che sia un multiplo di frequenza qui degli 11 metri e per te può essere un problema. A Luca magari una posizione qui messa non le danno fastidio, il segnale suo continua a essere quello che aveva in precedenza, mentre il tuo viene interferito, viene riflesso e se ne va a fangalla, capito? Tutto lì, niente di preoccupante, non ti preoccupare, sei sempre una big station, non ti abbiamo messo nelle stazioncine, sei sempre lì nelle top 10. Figurati, non mi creo problemi, è che volevo solo capire, perché mi dispiace dire FCD a Luca Flipper, capito? Lui dice, ma come mai, mister Previsione? No, è così, sembra in macchina, non so dovevo dirle. Siccome io, il segnale che gli ho sempre dato è 9:30, è più alto di quello che le danno al Monte Alto, che le date voi, solo proprio perché qua vicino a me, quindi non riuscivamo a capire questo. Flipper, usciamo, io andiamo a cercare questi pannelli solari che ci stanno rompendo le palle. Di scodella e quindi faccio difficoltà a sentirlo, non so cosa fare, credetemi, non voglio fare polemica, però ho grosse difficoltà a sentirlo, cosa che prima non avevo nel modo più assoluto. Va. Mi sto vestendo e sto andando lì, da qua, da sotto casa, verso casa di Luca, per vedere se stanno aprendo qualche cantiere, se hanno messo veramente delle pannellature, se c'è qualcosa che non... Veramente, mi dispiace Luca, perché cazzo mi è arrivata una bomba qua con quell'antenna. Guarda se segnale c'è per me, così. Forse sempre filato. Si è fermato, sì, 9:10 quasi e la radio è perfetta. Guarda adesso, adesso tu non ti credere, se è questo che sto dicendo io. Guarda, sta bene. Ecco, guardami il segnale, Sì. Da 9:10 si è sceso a 7, 5 di nuovo a 9. Da me è fermo. Da me è fermo, 9:20. No, è sceso la prima il segnale. Un po' oscillato. È passato da 7 si è mosso. Aspettate però, perché riuscirò a rilevare? Cosa hai fatto, Luca? Non ci crederà. Guarda, io ho la mano sul 60, la mano destra sul 60. E tenendo la mano sul microfono, proprio sulla parte del microfono, tu dai il solito segnale ed effetto. E lascio andare. E poi con la mano tu inizi a oscillare da 3, 7, 9. Allora, vedi tu, e il microfono. Allora te lo dico io, che forse è meglio che ti tieni sotto controllo del stazionale, perché non hai un buon impianto di terra. Hai cambiato gli scaricatori di massa, quelli sono cribbati. Aspetta, parla. E sta lì, è rimasto stabile. Aspettate un secondo. Così sta ed era quello. Secondo solo, poi vi rilancio che Marco ti voleva dire qualcosa, Luca. Adesso tu, tenendo la mano sul microfono, il mio segnale è sempre quello giusto? Sempre quello, 9:30, sempre quello. Allora, dimmi tu, guarda, con la mano ci le metti l'apparecchio a massa, e no. Ragazzi, vi rendete conto, cioè, a cosa stavamo andando incontro? Cioè, Luca, adesso ti risponde Marco in riferimento a questo problema, che non è un problema da sottovalutare, stai molto attento, perché Marco ti spiega una cosa molto molto grave, stai molto attento. Luca Del Monte ha capito qual è il problema, quindi abbiamo risolto, perché era matematicamente impossibile. Riprendi Marco. Qualcosa c'è sempre, o era una riflessione o un problema di uno schermo metallico o qualcosa del genere, o poteva essere un problema anche di quel tipo lì. Magari lui chiacchierando ogni tanto metteva la mano, ogni tanto no, tocca prima, tocca poi, questo era lungo e notare questa differenza. Il segnale è variato, se ci sono problemi di quel tipo è evidente che non hai una buona massa a terra. E allora l'unica cosa che ti consiglio di fare è di fare dei contrapesi, in modo che perlomeno gli fai vedere una massa virtuale e non ti si creano più quelle situazioni lì, perché io essendo in te controllerei e terrei sotto controllo anche le stazionarie o tutto quello che è il funzionamento in generale delle apparecchiature. Marco, scusa Luca un attimino. Allora, tu cosa fa pure a misurare con l'antenna? Per cui io l'ho già fatto. Lì ci sono scaricati, anzi se qua ci metto la mano sul fuoco, gli scaricatori di massa dentro l'apparecchio. Se c'è un impianto di terra tuo autonomo, controlla i picchetti se sono messi correttamente, se c'è o se non c'è, o altrimenti collegati a qualcosa che ti possa permettere di scaricare a terra tubi, l'impianto di riscaldamento, fossa settica, quello che è. L'unica cosa che posso fare, siccome l'antenna attacca la riviera, che è già scarica, però la riviera scarica al muro e basta. L'unica cosa che posso fare è agganciare un filo dall'antenna, un filo destro con l'antenna fluviale che entra nel ramo e va a scaricare in strada. Solo quello posso fare. Ma che non fare assolutamente niente di tutto ciò, che diventa un parafulmine e sono dolori. Allora lascia stare, non stiamo parlando di antenna, collega l'apparato a terra, l'apparato, la terra dell'apparato. Aspetta un attimo, claro, questo bicio io sempre uguale. No, sei perfetto, va, te sei 9 più 60. Perché c'ho le mani, non posso dire l'angolo, cioè. Oh, c'è le mani sulle balle. Lo sapevo che c'eri così. Cazzo, boh. Cioè, credetemi, le stavo facendo una malattia, ma non perché mi dispiace, cioè, che fosse andata così. È l'unico che è sempre in radio, l'unico che è sempre ascoltato bene. Cioè, venendo in queste condizioni mi stavo preoccupando davvero, boh. Però era matematicamente, Luca Del Monte ha provato che non era una cosa che, cioè, il problema c'era e c'è. Vabbè, il problema è risolto. Vabbè, lui, il mio segnale è sempre uguale, tocchi o non tocchi. Sì, i voti sono, infatti questo non capisco, adesso spiegatemi questo. Il segnale senza la mano sul microfono, il segnale degli altri è stabile, c'è un falso, Marco di Franco dice sì. Sappi beh, si ferma lì. Quello di Claudio fa di nuovo la prova, tolge la mano dal microfono e da 9.30 mi scende a 3, poi sale a 5, ecco quello che non capisco io. No, cioè perché siamo troppo vicini e ti faccio un battimento di quello standard, cioè tiglia. Però mi ricordo che il tuo segnale qua è questo, è 9+20 con pochi watt, quando superi 10-15 watt vai a 9+30 e ci sei a 9.30 e 9.30 ti arrivo io, perché il problema è quello, non capivo come mai ti arrivavo 9.5 se sono davanti a te. Abbiamo risolto un problema che è un problema risolto per quanto riguarda tra me e te, ma è un problema risolto soprattutto nei tuoi confronti. Come ti ha detto Marco, cerca di mettere una buona massa sulla radio, perché quel problema non lo deve fare. Infatti, adesso vedi, adesso la mano. E ho neanche così sono sotto qua. Tolgo la mano, è attento. Ecco, adesso sotto la mano. E se sarà di nuovo oscillante perché ho attento. E ci conferma. Guarda, Luca è un bravo carpentiere. Fatti fare una mano di mascella, falle una mano di Daura. Era buono in altro microfono. Sì, hai io. Ehi. Zampa di gallina ci vuole. E lui è che male, poi una zampa di gallina, Flippe. Prima la mattina fuori di un pollo. Certo di problema, ma dimmi tu. Ma mai mi capito. Con Vannino c'erano periodi che cioè rinunciavo ad ascoltare, proprio a fare questione due minuti. Perché era una cosa impossibile. Arrivava tutto gracchiante, tutto. Però poi abbiamo contattato che le sue antenne uscivano con l'acqua, piene d'acqua, le mie no. Meno male che era acqua o crack. C'era stato un video, era un video. Vediamo un po'. Luca. Eia. Il numero di Mario Manco c'è per caso. Eia. Ma non puoi fare un SMS? Non c'ho neanche 500 nulla. Già, ho preso anche messaggi gratis stamattina. Ciao, io infatti pensavo che avessi qui. No, me la fanno là. Ti posso aiutare. Ti posso aiutare se sei attento. Attento, dal tuo al suo. Ok? Allora, vediamo un po'. Mattino, torno indietro. Allora, sei pronto già? Sì, io però... Siedo nell'EPD, non ti sente? Ti faccio a ponte io. No, no, non mi sente a me. Ti faccio a ponte io. Ma lo trasmetti tu però. Esatto, tu me lo dai a me, io me lo segno lo a lui. Vabbè, ma si può fare anche così, dai. Dal suo, non il primo, il secondo, il terzo numero, ne aggiunge uno. Già, mi ho detto tu. Va bene, dai, daglielo. Ma facciamo qualcosa, vediamo se è intelligente, dai. Gianni? Ehi, sono andato a prendermi una penna. Ecco. Vai. Allora, il primo è uguale al tuo, ok? Il secondo è uguale al tuo. Al tuo aggiungine 8 al terzo numero, ok? Ok, dai. Allora, dal tuo aggiungine 8. Dall'altro quarto numero. Al tuo. Dal tuo quarto numero, levale 3. Ok, dal quinto numero al tuo aggiungine 3. Yes. Ecco, siamo arrivati al quinto, no? 1, 2, 3, 4, 5, sì, 5. Sesto numero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesto numero. Dal tuo, levale 5. Ecco, l'altro numero ancora. Dal tuo, levale tutti e 5. Tutti e 5 levale, ok? Ecco, dall'altro numero, levale le 7, 7 numero, 6, il settimo numero, l'ervalo, che appare quella del coso lì. Cioè il meno 1. Ah, è possibile il meno 1. 7 devi levare. E ti esce 0, no? Ok. Ecco, all'altro numero. Aspetta. Aggiungine al tuo 3. Fatto. Dall'altro levo le 2. Dimmi, sono giusti i numeri, contali, dai, vediamo un po'. Forse abbiamo fatto qualche errorino, eh. No, no, già io ho capito bene. Contami i numeri, quanti sono? 10. Ok, dai. Ascolta, mi confermi 083 finale? Sì, sì. Bravo, ok, bravo già, dici che sei attento. Sì, che sei attento. Bravo, bravo. Ehi, ah. Adesso non mi fa suonare male. Sono la radio. Non so se male è oscillante con questo. No, no, è il modo più assoluto. Allora, questo mi fa suonare originale. Sono andare, allora. Andare, 42 S, 0430. E ma ti intuono, ma è 9.30 qua, 9.20 e rotti. Ah, sono andato con l'acquirino. Fate l'altro che sono dicevato è andato a 9.30. Ha passato ancora? Così è a cerco. Sei cupo. Santiago 9 c'è qua a zero, immagina già di due senza fatte, Santiago 9, ma c'era il problema. Se aumenti arrivi 9.30, 9.35. Beh, un pochino occupa, dovresti attaccare il processore un po', vedere un po'. Dai, due minuti me ne vado a allontanare che sta venendo il mio collega a prendersi il caffè, sentiamo dopo. Ecco, cosa vuoi che inizia? Va bene. Cappa di erogio, cappa e cappa di positivo, eh? C'era una romanza poco fa, l'abbiamo più rilanciato, l'abbiamo fatto sparire. Mario. E diciamo la va. E adesso, forse... Ma scusa, il solito successo a mettere l'antenna alla posizione. La posizione, che si tolgono l'armatura di noi, per la radio. Sì, approfittane Lucca, sbanda tutto. Non so se la si mette una mano, però così come più un'antenna piccola, che non so che era. Un'antenna piccola, ma robusta e non deficiente. Va bene. Vedi di quello che ha messo Angelo di Alghero, che è dritto, è verticale, non disturba. Sì, perché già, è qua disturba poco a poco, mi dice, no? Qui è così, c'è poi ce lo so. Disturba poco a poco, guarda, inizia a rompere e se ne la fanno scendere di tutto. Non vuoi già. Ma va bene quell'antenna già. Va bene, sì. L'antenna va bene già, c'è questo problema di massa che abbiamo riscontrato e basta, dai. Fra, mi allontano un attimino perché ha attraversato un collega, sta venendo a prendere il caffè con la moglie. Sentiamo dopo, dai. Io sono qua comunque che vi sto ascoltando. Risolvi quel problema, Flipper, risolvi quel problema che è molto importante. Ehi, già, adesso cosa ha fatto? Che con questo microfono a te ti ascolto oscillante di me. Perché non ho... con quello l'altro avevo un piano di massa, questo non ce l'ha e ti ascolto oscillando. Non mi ascolti, sai, se mi devi perdere. Eh no, stai oscillando anche qua di nuovo, stai oscillando anche qua. Ti conviene mettere quel microfono là, prendi un cavettino, anche giallo-verde se ce l'hai, un cavo unico, di quelli unici, insomma, bipolare, e lo porti da dietro, invece la rondellina della massa, a come ti ha detto Marco, a un termosifone, a un qualcosa, come avevamo fatto prima, a uno scaffale in ferro, insomma, cerca di farti un buon piano di massa, e così il problema è risolto. Questo che qua non ho né termosifone, non abbiamo, però... Poi è stato indietro, la ruggera, c'è una mossa dalla radio alla migliore. E funziona però perché non so neanche prima. Perché prima devo risolvere, perché le ho accoppolate luci, perché se non fai che non mi faccio il tavolo delle persone, perché si rischia. Lo attacco volante, ma tutto cosa l'ha detto volante. Se carica lì, mi dice che va bene, io poi lo faccio lì, perché se non vado, certo, fa il muro, il palazzo. Apriti una presa e prenditi un pezzo di massa a terra, ti allunghi il filo e gli metti una bombina di induttanza. Cos'è una induttanza? E di slip. No, quello martingala tu. Ah, tu poteva ricollegare, io lo carricheggio. Prendilo con la gara, se non ha tu bideva in camera a letto. E veramente appiglia un cavo elettrico e portalo sino a flessibile dello scaldare a bagno. Ma qualche posto dove passa l'acqua per caricare il bene? Tu non hai visto una camera da raccolto dove passa un tubo d'acqua? Io non l'ho mai visto. No, non ne ho una camera. Fra come quel franco la vita, fa così. Ah, sto solo con la tua idea. Ascolta a me. Prova dall'uscita delle MC60, sotto il basamento delle MC60, non hai quelle vittine. Mettile, falle toccare le fai un anellino piccolino con la vite, gliela avviti lì, e poi lo spegli e le fai toccare la base del microfono, la base dietro dove c'è la farfalla della radio. Guarda se riesci a scaricare sulla carcassa della radio, a vedere. È più corto, così momentaneamente, poi già lo studiamo bene come fa. Allucinate, oh. Non sono degno di te. Tutti quei cammini, Franco, caro. Davvero? E allora, quando senti così io me ne vado subito all'università perché mi commuovo. Va. Luca. Luca del Monte. Spostato. Walter. Ci sono tutti spostati, va di babà. È l'apparato che va male o... fa quel tu è l'apparecchio, perché ho provato a toglierlo dall'alimentatore e a metterlo su un altro alimentatore, lo fa sempre, e l'apparecchio è frutto. Questo per esempio è quello della macchina e non lo quasi. Non ti sto seguendo, Natalie, in senso questo è il problema dell'apparecchio, in che senso? Quale apparecchio? Il Midland, quello che c'è sul comodino, quello lì mi fa un rumore tipo tutto molto picco in ricezione. E se bene l'apparecchio si distribuisce, però in ricezione mi fa quel rumore lì. Cosa male, la gesticolazione? Non so cosa dire. Non lo so, Natalie, Vabbè dai, il problema si è risolto, va. Luca, dimmi una cosa invece, quant'è che stavi sparando poco fa? 140 watt, quello fischiamo saliva a 7, fischiamo a 100. Allora, 140 sono 9,30, facciamo il calcolo, aspetta. Non so fare il calcolo io, non so neanche come funziona. Vabbè. Luca, flippa. No, voglio vedere se quei 140 watt che hai tu sono regolari. Guarda quanto ti sto arrivando io così. Vai. Prova. C'è in mezzo, fra il middle lo conosci benissimo, in mezzo tra il più e il 3. Tra il più e il 3, aspetta, guarda così. Sì, praticamente sul 3, ma non centrale proprio, sì, sempre sul 3, tra il 3 come è fatto, c'è da una papa, come si dice, far culo. Sì, non proprio centrale però, fra, sul 3, non centrale. Quindi sono 30, 20, no, non li sta sputtando fuori quell'affare 140, non è possibile. Di meno o di più? Di meno, che se io sono quasi sopra il 3, sei sopra il 3 e io sono 40 watt in meno di... Secondo te quanti watt sta dando? 100. Io a scala 100... Vabbè, sono staccato. A scala 100 mi sale a 6, o non fischio sale a 7. Vabbè, il 7 non è segnato, però c'è la come si chiama? Stavo per un nome. Beh, capito, comunque il rumore non c'è la la lineetta, dai, la lineetta, poi non c'è il numero, non arrivare quando un fischio, fa 100, eh? Allora ho 100 fa, non è dato 100, non c'è qualcosa che non fa. Ma non è che li dai in banda? No, non c'è banda, non è la banda qua, qua c'è minima potenza, allora aspetta. Minima via. Passa, però, sono 30, ok? Allora. 40 e più, aspetta un attimino, un attimo il telefono, e questa qua a potenza 50, sì sono 100 giusto. Aspetta il telefono, fra, dimmi. Dai, io non sono matematico, ma Lu, io mi assento che mi devo fare la doccia, corre X provvisorio da parte mia. Mario, riprenditela tu. Sì, comunque fai ragione, perché qua 0, 20, 40, 50, non lo segna perché c'è un puntino e si ferma lì. Però non fisco se ne scende a 40. No, già è così. No, era giusto per vedere i calcoli. Va bene, dai. Oh, sto andando a farmi la doccia, ci sentiamo dopo. Mango in stand-by. Ciao, va. Ehi, guarda, sono cambiato qualcosa. Più basso adesso, 9-10, mica 9-10. Guarda adesso. Questo c'è caffè. 9 più 20. Però mi sono un po'... Ma se va bene, ma che io metto la UCA meno di uno. Fischia un attimo. Senti. Cappa, fai da 9.10 a 9.15 quando fischi. Adesso mi dai con Claudio, perché il problema è che non sono con Claudio. Adesso mi dai con Claudio se è di nuovo oscillante. Oh, ma mica è una cosa allucinante, ma poi vi sento tutti i freni. Trasmette, fa sopporto e si ferma lì. Con Claudio sembrava che era in macchina da 3 a 5 a 6 a 9. Infatti non riuscivo a capire. Poi mettevo la mano sul microfono quando ho fatto la prova, insomma, mettevo la mano, in pratica si stabilizzava il segnale. Cioè, tornava a 9.30 il segnale, tranquillo, e cambia. Tutto dal microfono. Non lo so cosa dirti, comunque è una cosa un po' strana. Ma a me è ristabile, se non te l'avrei detto, ci mancherebbe. Allora, così mi arrivava Roberto Quadrato, la plattava una stabile, sembrava che era movimento, si arriva a segnare, però non capivo come diceva. E così era Roberto Quadrato a me, c'era una segnale allucinante, come un medico di SB, Cosa vuoi? Il mio è sempre uguale, no? Ma perché ne attivi io? No, solo perché da 9 e 10 quasi, sono fissi 9 e 15. A 9 e 15. Aspetta. Adesso qualche 10 watt e meno ci sono. Infatti se non vedi. K. È così? È ancora, No, questo è tutto a palla. Sto saturando, vero? Sì, sta saturando il segnale di 9.10. Però sta saturando. Aspetta. Vediamo un po'. Faccio il preaccordo. Vediamo se sale. No. Ho imballato il fugoso, già, insomma. Cappa sono la prima. 4, ritone, tune. E load a 8. Sto funzionando bene. Oh, ma anche io fa un video quando giro il scoppino, a me, vuol dire che fa funzionare bene. La me sta arrivando bene. A volte c'è uno schifo, tipo poco fa stavi tacchiando, diciamo, non c'è un bel male, non so che sei truccato. Approfittane se sono sul tetto, approfittane! Sì, ma non si lascia la puntata, infatti il primo momento la picchia, come ha una fatta. Immaginati questo palco. E più si fa lo spirito, ovviamente. Almeno te la faccio. Guarda, è spiegato adesso, che è qua da la terrazzina, adesso ha spiegato che ti pensi per sempre qua. Quindi no, ti magnifica di mezzo. Solo che una gola, perché il vento entra da giù, supera i palazzi che dice tu in Occiola, quello lì, e fa la gola, la spiego la strada lì. E l'ha spiegato. Ma così mi pare anche al fondo di tanta funzione. Quindi ho spinto la mano, così c'è la lanterna, non c'è la rossa, che il vento proprio, guarda la mia tagliamata, che è dritta, se verrà di te. Io stamattina ho messo il capo grosso, stamattina ho cambiato tappa, solo che non riesco a capire una cosa, che con 58, vabbè c'è diversa incoerenza, vabbè con 58 non devo stazionare, zero, proprio zero completamente, all'1 a 40, ma così muovi all'ago, appena un pelino proprio, e sono questo 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, addirittura su 42 mi salgono, a 2, 2 e mezzo uno fisco. Guarda, quell'antenna lì se sarà fatta bene, se sarà spirale la fatta la metà di misura, stazionare non gli dà qualcuno, cioè uno, forse ma reggeranno. Perché se no, strano, strano, se arriva a correre anche in compagno, la spirale. Però strano, perché cambia per salvo, se la tavola cambia per salvo, mette qualche PL, due, qualche pezzettino di casa, quando cambia la centrale, no? No, negativo lui, qua più bene il PL, cazzo, non posso sbagliare lì, non posso sbagliare, no, poi, siccome è la doppia cassa, non so se conosci il 214, come cazzo, è la doppia cassa, perciò un pezzettino gliel'ho tagliata, e l'altra che è rimasta gliel'ho avvolta, gli ho fatto un bel, come ti posso dire, un bel... Gli ho fatto il coso, tutta la volta uno, tutto sopra l'altro, mi ha fatto un bel coso, un motore PL, la pesantura entra in benessing, va bene. Poi gli ho lasciato un pezzettino di isolante, quello che isola il polo caldo, un pezzettino di bucio di mezzo centimetro circa, in modo che quando io vado a mettere il PL tocchi dentro, perciò è possibile che sia una massa. Sì, che tocchi bene la plastica. La plastica che divide centrale dalla scalda. Sì, c'è la scalda uno scacco. È strano, molto strano, è un capo buono quello. È un capo fatto da 58 la dirita. Ma con 58 avevi trovato però che per stazionare veramente a uno pure. Non lo so, lui, è qua il problema, il cavo se l'ho cambiato, l'impedenza è diversa, non so cosa dirti, comunque qua è a posto, fatti bene, come è il franco Delta 1, veramente è facile a farlo, non ti ammazzi, se tu mandi tutta la casa indietro, che è doppia, quando tu vai a vitare il PL, cosa succede? A parte che ti entra sotto, e più ti ammazzi, perché viene un bel malattino. Ci vogliono due pappagalli ci vogliono. Oppure vai a una tenaglia, prendi il PL e col pappagallo lo tieni il capo. Sì, è vero. Mi era capitato a me. Con l'RG8, all'epoca. L'ho messo l'RG8. Era matto. Ma la pistola guarda a casa. Tosta, infatti io invece di mandarla sopra la gomma ho bloccata lì proprio all'inizio, l'ho girata, l'ho avvolta assieme, questo tipo una pallina là, e qui la sopra tra stretto bene, era un docca stretto a morte, perciò non c'è, è impossibile che dipenda da quello, sono fatti bene, sono fatti con diciamo con precisione. Infatti Carlo me l'ha detto, lui io le faccio diversamente. È un po' un casino, però è meglio. Anche così va bene, tanto la carta fa massa lo stesso, perciò non c'è problema. Non so, devo vedere un po' lui. A meno che non ti posso dire. Loro ti danno la, mi sembra che nella mattoma c'è scritto, e usando il 58 la spirale va a 7 cm circa, 7 cm. Però mettiamo questo qua che è diversa impedenza, va di meno, ma bisogna salire sul tetto, con un rosmetro con le contrapalline e abbassare la stazionale. Secondo la parola del campo sta accorciando. Ha accorciato lui, l'ha avuto lì in camera, l'ho tagliato, infatti ne ho fatto lo spezzone da 90. Ma è giusto il cavo in camera, è giustissimo. Cioè, c'è sarà, guarda, aspetta. Se proprio voglio fare giusto, no, poi lo riesco a spostare il mobile. Tanto mi sarà in occhi, più o meno, ci va a vedere. Allora, sto qua. Sarà un metro e mezzo sarà circa, in più. No, infatti stai lì a osservare l'arco senza capire se la cavo o se la tirata. In questo punto sarei costretto a provare a diminuirla o a aumentarla. Io ho fatto, quando ho messo le reti 8 me la mando, ho fatto le misure che c'erano nelle persone, l'antenna, non ho mai avuto problemi. Metto così, l'ho salita, l'ho messa in piedi un attimo, nel terrazzino, con un palo accorto, l'ho provato e non se ne hanno messo mai. E poi l'ho salita più spesso affogando la mente. Però la misura è comunque quella, con le reti 8, non ricordo le reti 8, no, sono proprio. Certo come lo ricordo, tipo 213, certo come lo ricordo. No, questa qua c'ha, allora, il 213 c'ha, l'RG8, adesso non mi ricordo se è uno o l'altro, che hanno la casa dorata. Adesso questa qua c'ha la gentata, però doppia. Allora, il problema è questo, tu compri la mattoma, c'ho il bigliettino delle istruzioni, no? Come piazzarla, come tale la spirale. Però te la danno per il 58, RG58, perché da questa al 58 ha un'impedenza diversa. Se chiedo dovresti provare a regolare la cosa, sì, è una cosa. Io ho un problema, c'è un problema, posso fare anche da solo, salgo, la passo un pochettino, guarda, c'è trombanda. 20 e 40 faccio, però guarda il 20, se vede che non sale a posto, sale come la 40, se usce, ma appena non lo passa, ma è proprio un pelino, e fatto il gioco. Si passa poco, e loro ti danno, come si dice, la caratura in base al 58, dai, al capo RD58, se tu cambi il capo, siccome l'impedenza è diversa, allora è quello il problema. Claudio mi ha spiegato così, io ti sto spiegando, più o meno, dai, è buono, vediamo. No, è solo già l'ultima di base, sta a salire sul tetto, già mi hanno rotto le balle stamattina, anche se nel suo tetto salgo, ma proprio salgo dal bordo, che lì è più resistente il cemento, diciamo. Certo, è impossibile spaccarli lì, è impossibile. Perché è fatto... più messo bene, diciamo. Salgo sì, però non spacco niente. Poi mi ha detto che gli sta entrando acqua lì. È equipaggio mio. Io sul tetto suo non ci ho camminato, io cammino sul tetto dell'asta che avete a fianco lì, infatti gli ho detto qua gliene entra lì, no, lo macchino va di tubo a lei, no, anche dalle tre, ma tu dici che mi intendo con un macchino, va, mi intendi, e ce l'ho stronzate. Poi dipende dalle finestre. se ci sono delle religiosi che non è una cosa che riesce a stampare. E in più lei c'ha il terrazzo, io ho visto come abito io, lei c'ha il terrazzo, figura della terbaccia, e la mia è sul tetto, mi sento lo stesso con la chi. Che è l'altro avanti? Gio, avete in conto se state facendo? No, già, stavo spiegando a Luca come funziona dal cavo sottile al cavo grosso, ma se tu ti ricordi bene Gianni, nel, come si chiama? Dentro la mantova c'è il foglio delle istruzioni, no? Taranno in base al cavo, lì fa la taratura, la taratura della spirale, giusto? C'è scritto il 58, ne parla, vero? Eia, ma non in base al capo. C'è scritto che vuole portata, mi pare, 7 mm, mi pare, non mi ricordo quanto è. 7 mm, 7 cm, cazzo, me la metto più, figurati. Vabbè, comunque già ci siamo capiti. E l'impresa cambia, perciò. Adesso vediamo. Cioè, la guscica, non si può, ma anche non mi sta più tutto. Perché non si sta andando bene, scherzo? Sì, mi sta andando bene, già, ma mi da stazionare, però non si muovevano alla... lo strumento, nulla, proprio un pelino, guarda, un pelino. Tu ci devi mettere l'occhio sopra per stare lì e aspettare che sia lì. No, perché devi rimanere puntato, se non è che te ne accorgi. Cazzo, su quanta mi salgono? Quanta? Due. E allora vuole regolare il coso, bisogna di nuovo... perché conoscono queste cose, poi bisogna fare la caratura. Non è così semplice, cioè, come si crede tante volte. A volte ti va bene, a volte però magari ti devi fare la taratura nuova. Sì, vabbè, la facciamo, non c'è problema. Allora, a posto con Mario, sì. Non ha risposto.